Buongiorno. Quanti amano Mario? Mamma mia. C'è qualcuno che non ha alzato la mano però, Mario. Poi te lo dico chi è stato. Poi te lo dico perché insomma. Come stiamo, chiesa? Bene, benissimo. Allora, io ieri, un attimo di confessione qui, stavo incominciando a pensare un po' a come fare un'introduzione di quelle belle, di quelle, e avevo in mente di dire: chiesa, non so, forse sarà per il sole che splende, ma siete molto più belli oggi. Non si può dire questo perché il sole non splende, ma siete veramente bellissimi, qui in sala, lì a Mottola, bellissimo, siamo una chiesa fantastica, no? Chi è d'accordo con questa affermazione? Allora, questa mattina vi vedo un po' silenziosi, vi sento un po' troppo silenziosi, cioè quando Mario ha detto preghiamo ad alta voce per i Jesus Revolution, sembrava veramente un'altra chiesa, che non voglio fare nome. Quindi, per piacere, in questi, non so, 40, 45, 50, oggi non ci sta il pastore, quindi posso prendere, diciamo, tutto il tempo che voglio, però no, non lo farò. Facciamo in modo che non sia un monologo, ma sia un tempo di interazione. Ci siamo? Benissimo, fantastico. Quindi, perché non preghiamo insieme da capo? Ci alziamo in piedi? Anche perché alzarsi seduti è un po' difficile. E preghiamo. Signore Gesù, io ti prego che tu questa mattina possa parlare ai nostri cuori. Spirito Santo, io ti prego che tu possa trasformare le nostre vite, che tu ci possa convincere di peccato questa mattina, che tu possa andare nella profondità del nostro cuore e possa far sì che noi ci possiamo allineare alla volontà del Padre. Nel nome di Gesù prego questo, è una chiesa che è pronta ad essere trasformata, dice? Amen. Bene, questa è la mia chiesa, benissimo, ci possiamo accomodare? Lì a Mottola, vi ho sentito? Bravo Giuseppe! Questa mattina parleremo di una storia che io sono certa, al 100%, tutti quanti noi abbiamo ascoltato almeno una volta nella nostra vita, che l'abbiamo ascoltata in chiesa, oppure al catechismo, oppure abbiamo visto il film. È la storia che dopo i 10 comandamenti è conosciuta, è più, tra le più conosciute. Parleremo di quando Gesù, durante la sua ultima cena con i discepoli, ha lavato i piedi ai suoi. Ora, per chi mi conosce un tantino, lo sa, che predicare questo messaggio su dei piedi, per me, è molto molto difficile, perché per chi insomma non ha avuto modo di vedere le mie reazioni quando un piede si avvicina alla mia caviglia o dovunque, diciamo un po' la mia voce si trasforma, perché vado proprio un po' in panico, vedete, adesso solo a pensarci sto cominciando a balbettare, però vedremo, e io prego che veramente attraverso la lettura di questa storia, attraverso il nostro riflettere su questa storia, i nostri cuori possano essere trasformati, che possiamo ascoltare queste parole con possiamo leggere queste parole con degli occhi nuovi. Ci siete? Quindi lo facciamo insieme. E questa storia, lo sapete, si trova in Giovanni 13, e quindi leggeremo dal versetto 1 al versetto 20, così per avere una bella panoramica di quello che è successo in questo evento. Prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da lui e da lui ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti. Poi, preso un asciugatoio, se lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque a Simon Pietro ed gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Diciamo che Pietro era bravo a, diciamo, sottolineare l'ovvio. È chiaro che gli stava lavando i piedi, l'aveva lavato a chi stava prima di lui. Signore, tu lavi i piedi a me? E Gesù rispose e gli disse: quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: Pietro, se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Allora Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi i piedi, ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse: non tutti siete mondi. Così, dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio, affinché come ho fatto io facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma bisogna che si adempia questa scrittura: colui che mangia il pane con me mi ha levato contro il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate che io sono il Cristo. In verità vi dico, chi riceve colui che manderò riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Quanti conoscevano questa storia? È una storia incredibile. Sapete, per 3 anni il ministero di Gesù è stato caratterizzato da azioni che lui faceva intenzionalmente per scioccare le persone attorno a lui. Ogni miracolo che Gesù ha fatto non era solo un miracolo per guarire, per salvare, per liberare, ma ogni cosa che Gesù faceva la faceva anche per cambiare il modo di pensare di chi lo attorniava, per capovolgere l'ordine delle regole religiose. E pensiamo quando Gesù, non so, guariva di sabato, quello che lui faceva non era solo una guarigione, ma era un dire: ehi farisei, ehi folla, ehi discepoli, le persone vengono prima delle regole, sono importanti e io le amo. Quando ha messo sotto sopra il tempio, perché ha visto che il tempio si era trasformato in un mercato, quello è stato un atto che ha grandemente scioccato tutte le persone che stavano attorno a lui. Quando Gesù lo vediamo che parlava con delle donne, con dei peccatori, quando è andato a casa di Zaccheo, le persone lo vedevano e dicevano: ma com'è possibile che Gesù faccia tali cose? Gesù ogni cosa che faceva la faceva non solo per guarire, per liberare e per salvare, ma la faceva anche per smuovere, per scomodare, per istruire, per equipaggiare chi lo attorniava, chi erano quelli che erano i suoi discepoli, i suoi seguaci. E in questa storia ha fatto ancora una volta un qualcosa che era contro le convenzioni. Mai prima d'ora si era visto un maestro che si alza dalla tavola e incomincia a lavare i piedi dei suoi discepoli. Era un qualcosa che andava contro ogni regola, che andava contro ogni tradizione, che andava contro ogni proprio mentalità del tempo. Eppure Gesù l'ha fatto. Gesù si è alzato e ha lavato i piedi dei suoi discepoli. Lo vediamo, immaginiamoci la scena. Gesù era a tavola, ok? Questa cena doveva essere l'ultima cena, è stata l'ultima cena che Gesù ha avuto con i suoi discepoli. E tu non vuoi che l'ultima cena, deve essere tranquilla, felice, pacifica, ma come tutte le cene tra le famiglie, di tranquillo diciamo che non ha mai niente. Infatti, che cosa succede? Succede che tra i discepoli scoppia una rissa. Cioè, io non lo so, noi quando leggiamo la Bibbia, diciamo, tra i discepoli scoppiò una disputa, dice la parola di Dio. E noi ci immaginiamo, no, che il discepolo alza la mano e dice, io vorrei dire questo pensiero, lo voglio condividere con voi. No, i discepoli stavano litigando, stavano discutendo su che cosa poi, su chi era considerato il più grande tra di loro. Dopo 3 anni che erano stati con Gesù, giorno e notte, che avevano ascoltato i suoi insegnamenti, che l'avevano visto guarire gli ultimi, che l'avevano visto accogliere gli emarginati, i discepoli, l'ultima cena, riescono a litigare su quella che sarebbe dovuta essere l'ultima questione da mettere in tavola. È un po' quello che succede nella mia classe, la seconda. Molti esempi che vi darò riguarderanno i bambini, insomma, a scuola, perché noi siamo molto simili a loro, più di quello che immaginiamo. Ogni volta che in seconda io dico, Valerio, ma che bravo che sei stato, succede una rissa. Maestra, anche io, no, io sono il più bravo, no, tu vuoi più bene a lui, no, io ho fatto meglio, io so scrivere meglio, vedi il disegno, ti ho fatto questo disegno. E quindi quello che voleva essere un incoraggiamento, uno sprono, diventa un motivo, diciamo, di lite vera e propria, perché poi Valerio vai fuori, la nota, e insomma, poi potete immaginare. L'unica differenza qui è che non si parla di bambini di 7 anni, qua si parla di discepoli, qua si parla di uomini che avevano vissuto 3 anni insieme a Gesù, a braccetto con Gesù. E voi immaginatevi Pietro che dice, ragazzi, per cortesia, fatevi da parte perché qua il migliore sono io. Hai camminato tu sull'acqua? No, ho camminato io. E i discepoli che dicono, guarda Pietro, fatti da parte tu, perché tu in quelle acque sei pure negato. Quindi stai tranquillo, cioè, vola basso. Allora poi c'è Giovanni, ragazzi, per piacere, io non è che lo voglio dire perché voglio essere umile, però il più grande sono io, perché non l'avete visto come il maestro mi guarda con quest'occhio di riguardo. E poi c'è Bartolomeo che cerca di inserirsi in questa conversazione, però lo sa che poi alla fine nessuno si ricorderà di lui, e in effetti, diciamo, non è che ci ha visto malissimo. Bartolomeo è uno dei discepoli, giusto per... Gesù era lì a tavola e ha visto questi uomini che lui ha amato, che lui ha servito, ai quali ha insegnato tutto quello che lui sapeva, perdersi in un bicchiere d'acqua. Ha visto questi uomini che avevano ancora il cuore abbastanza inorgoglito, che volevano essere uno meglio dell'altro, che volevano il riconoscimento uno più grande di quello che l'altro avrebbe ricevuto. E Gesù, la cosa che più mi ha colpita quando ho studiato questa storia, è che davanti a quegli occhi, a quei cuori inorgogliti, ha visto un'occasione. Ha visto un'occasione per amare i suoi, e l'abbiamo letto, per amarli fino alla fine. Lui non si è fatto cadere le braccia, dice, ma questi qua, cioè dopo 3 anni, ancora non hanno capito niente, ma com'è possibile? Ma forse dovevo scegliere altre 12, non lo so. Non hanno capito niente. Non si è arreso. Ha continuato a credere. Anche quando loro non credevano, Gesù ha creduto in loro. E la stessa cosa fa con te e fa con me. È incredibile, questo l'amore di cui Gesù ci ama. Davanti a quella prospettiva così limitata, davanti a quella vista spirituale così miope, davanti a quei cuori così, ripeto, inorgogliti, Gesù ha visto un'occasione per amare i suoi fino alla fine. E come li ha amati? Li ha amati, l'abbiamo letta la storia, li ha amati servendoli. L'amore di Gesù per noi, come lo era per i discepoli, è un amore che serve, è un amore che si abbassa, è un amore che si sacrifica. Ripetetelo con me, l'amore di Gesù serve, si abbassa e si sacrifica. Questo è l'amore di cui Gesù ha amato i suoi discepoli. I discepoli e noi con loro avevano bisogno di capire che davanti a Gesù, davanti al Padre, il più grande era effettivamente quello che si abbassa. Che il più grande è quello che ama servendo. Che il più grande è colui che è disposto a sacrificarsi. Che tu sia, tu non sei più grande agli occhi del Padre in base a quante prediche hai predicato nel corso della tua vita, o in base a quanti gruppi in casa hai sdoppiato nel corso della tua vita, o in base a quanti like ricevi alle foto che posti del tuo ministero o dei tuoi atti di servizio. Guardate, mi sto servendo. Con Dio non funziona così. Davanti a Dio il più grande è colui che serve. Il più alto è colui che si abbassa. Colui che ha più potere è colui che si sacrifica. E Gesù non solo l'ha detto a parole, ma l'ha dimostrato con un atto rivoluzionario. Si è alzato dalla sedia e si è abbassato. E ha lavato i piedi dei suoi discepoli. E incredibile, quella di lavare i piedi ai discepoli, lo sappiamo, quindi non mi dilungherò troppo, ma era una cortesia, no? Che si faceva in ogni casa nel momento in cui un ospite entrava, ok? Ma era una cortesia che non doveva fare qualsiasi servo, era un compito che il più piccolo dei servi doveva fare. È un po' come pensare alla, non lo so, alla regina Elisabetta, quella donna anziana che non muore mai, alla regina Elisabetta che si mette a lavare i bagni di Buckingham Palace. È un po' come pensare a Papa Francesco che si mette a cucinare o a lavare la cucina delle stanze del Vaticano. È un po' come Chiara Ferragni viene a casa tua e tu la metti a sturare il tubo del bagno. Cioè, è un po' così, su Chiara Ferragni vi ho perso un po' tutti, ma insomma, seguitela anche voi se vi fa piacere, non lo so. Nessun uomo con autorità, con un titolo, con un'importanza, nessuno avrebbe fatto quello che Gesù ha fatto. Nessuno avrebbe lavato i piedi dei propri discepoli. Nessuno si sarebbe abbassato a tal punto da toccare questi piedi brutti, grandi, pelosi, callosi, sporchi. occhi e puzzolenti. Veramente Gesù ci ama così tanto. Veramente. È incredibile. Gesù l'ha fatto perché ci ama. E voglio aprire una parentesi. Gesù sapeva chi lui fosse nel Padre. Gesù sapeva di essere il figlio di Dio. La sua autorità era salda, non poteva essere scossa da niente e da nessuno. Gesù sapeva chi lui fosse e quindi non ha avuto nessun problema ad abbassarsi, perché non doveva dimostrare niente a nessuno. Lui sapeva, la sua sicurezza veniva di conseguenza alla sua forte identità. Che tu sia pastore, ministro, capogruppo, leader di questo, di quest'altro, leader della formazione, leader di questo, leader, se la tua identità non è basata sul titolo che hai, sulla responsabilità che ricopri, sull'autorità che ti è stata data, perché ti è stata data, non te la sei guadagnata, non avrai alcun problema a fare quello che nessuno vuole fare, a servire gli altri e a servire Dio e a servire la Chiesa anche nei modi più umili che possiamo immaginare. Perché? Perché la tua identità è in Cristo. Quindi che tu lavi bagni piuttosto che altro non intacca nulla. Che tu vai, che servi e non lo so, investi ore ed ore ed ore nell'aiutare una persona di cui nessuno sa, cioè nessuno sa che stai facendo così tanto, non ti interessa, perché sai chi sei in Cristo. Allora chiediti, farei tutto quello che sto facendo per Dio anche se nessuno lo sapesse? Io me la sono fatta questa domanda. Ho risposto di sì. Sono sicura che anche voi risponderete di sì. Gesù ha servito. Perché il vero amore è un amore che serve. Gesù si è abbassato e si è sacrificato. L'abbiamo visto. E per chi l'ha fatto? L'ha fatto per coloro che amava, l'ha fatto per i suoi discepoli, l'ha fatto per coloro con i quali aveva speso gli ultimi 3 anni della sua vita, lo ha fatto con coloro che aveva scelto, lo ha fatto con coloro in cui aveva investito, che aveva dato da mangiare, che aveva guarito. L'ha fatto per coloro che ha scelto di amare fino alla fine. Ma non ci scordiamo che in mezzo a questi coloro c'era Pietro, colui che l'avrebbe tradito, colui che l'avrebbe rinnegato, e colui che avrebbe cambiato il suo modo di parlare per non farsi riconoscere che era stato insieme a Gesù. Gesù lo sapeva. Non è che è stato sorpreso poi dai 5 minuti di Pietro. Gesù lo sapeva. Eppure ha servito Pietro, si è abbassato, si è sacrificato per Pietro. In mezzo ai ragazzi c'era Giuda che aveva già deciso, l'abbiamo letto, di tradire Gesù per un paio di euro. E Gesù lo sapeva, eppure non è che ha detto: Giuda, guarda, ma non te li lavo i piedi, perché tu lo sai perché. No, sarebbe stato un sacrificio a metà. O per meglio dire, sarebbe stato un sacrificio che non rispecchia l'amore profondo e incondizionato che Gesù ha per te e per me, come quello che aveva per i discepoli. Gesù ha lavato i piedi di Pietro e ha lavato i piedi di Giuda poche ore prima di essere rinnegato, poche ore prima di essere tradito. un po' come Salvatore, 7 anni, che ad un certo punto mi dice: maestra, ma tu mi vuoi bene? E io lo guardo e dico: Salvatore, certo, tantissimo, ma mi vuoi bene perché sono bravo? E io gli dico: no Salvatore, anche perché non è bravo, no Salvatore, io ti voglio bene perché sei Salvatore, ti voglio bene anche quando fai il monello. E Salvatore mi guarda e dice: hai detto una cosa molto bella, grazie maestra. Gesù ha amato Pietro e Giuda anche se sapeva che erano due monelli. Li ha amati fino alla fine, non di un amore a parole, ma di un amore che si è sacrificato, di un amore che si è abbassato. E lui fa questo per ognuno di noi, perché che ti piaccia o no, non siamo tanto più bravi di Pietro. Cioè, se leggiamo questa storia, posso essere diretta, tanto ormai siamo abituati. Se leggiamo questa storia e io la leggo e dico: mo, io in questa storia sono proprio come Gesù, leggila da capo, perché forse non hai proprio capito bene bene in fondo. Noi ci conosciamo e non siamo tanto meglio di Pietro. Non siamo tanto meglio di Giuda. Perché è chiaro che non abbiamo tradito Gesù e quindi contribuito al suo andare sulla croce, ma quante volte abbiamo messo Gesù come secondo a qualcos'altro, come secondo a qualcun altro, che siano i soldi, che sia la carriera, che siano gli studi, per chi sta ancora studiando, è buono che studiate, ma hey, le priorità sono importanti. Che sia tuo marito, che sia tua moglie, che sia tuo figlio, nel momento in cui metti Gesù al di sotto di tutte queste cose che ho citato e di quante tu ne puoi aggiungere, tu stai tradendo Gesù, perché ti stai dando, la Bibbia dice ti stai prostituendo con qualcuno che non è il tuo sposo, con qualcuno che non è Gesù. Ma quanto è bello che, nonostante tutto, Dio sapeva: Noemi nel 1900 bla bla bla farà questo e questo e questo, mi tradirà in questo modo e facendo questa scelta, ma io ho scelto di amarla fino in fondo e quindi io ho un amore per lei che si abbassa e che si sacrifica e che la serve. E se non ti senti amato questa mattina, pensa solo a queste ultime parole che hai ascoltato. Gesù ti ama e ti ama fino in fondo, nonostante tutto. Non è la notizia più bella che puoi ascoltare? È incredibile. E sapete quello che Gesù ha fatto, e stiamo per concludere. No, è bugia. Quello che Gesù ha fatto, lavando i piedi dei discepoli, è molto più di un semplice esempio di umiltà che Gesù voleva dare ai suoi discepoli. Cioè, i discepoli avevano bisogno di capire che amare vuol dire servire, abbassarsi e sacrificarsi, e Gesù gli ha dato un esempio pratico, come servendo, amando e servendo, abbassandosi e sacrificandosi per loro in quel contesto, un esempio pratico da seguire. Ma Gesù ha fatto molto di più, perché in realtà questa storia è tipo una parabola. Sapete che Gesù, durante il suo ministero, ha predicato usando delle parabole. Che cosa sono queste parabole? Sono delle storielle di facile comprensione che Gesù usava per far capire delle cose molto più difficili. Giusto? Mi state seguendo? Gesù, lavando i piedi dei discepoli, non stava facendo altro che dare una rappresentazione pratica, visibile, comprensibile di quello che sarebbe stato il suo sacrificio sulla croce poche ore dopo. Ascoltiamo, vediamo il versetto 4 e leggete insieme a me. Si alzò da tavola, ok? Depose le sue vesti. Non, questo linguaggio non vi riporta da qualche altra parte, si può dire? Da qualche altra parte nella Bibbia. Lui depose le sue vesti. In Filippesi 2, che cosa c'è scritto? C'è scritto che si spogliò, svuotò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini. Gesù ha deposto le sue vesti e si è cinto di un asciugatoio. In Filippesi 2 c'è scritto che Gesù svuotò se stesso del suo essere uguale a Dio e si ricoprì, si cinse di umanità, diventando un servo. Gesù in questa storia si abbassò per lavare i piedi dei discepoli. Gesù dal cielo è venuto sulla terra. Da quella sedia si è abbassato al pavimento. Il re dei re, Dio figlio, sceglie di vestirsi di umanità, scende dai cieli alla terra. Ma non solo questo, perché Dio non ama solo parole, Dio ama fatti. Da quella sedia, quella sera, da tavola, si è abbassato sul pavimento. Filippesi 2 c'è scritto: trovato simile a un uomo, abbassò se stesso, diventando ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. È incredibile. Gesù ha versato l'acqua nella bacinella, su quella croce ha versato il suo sangue per te e per me. Gesù ha lavato i piedi dei suoi discepoli, su quella croce ha lavato il tuo cuore, ha lavato il mio cuore di tutti quei peccati e quei legami e quelle scelte negative, quei compromessi e quelle dipendenze che ci distanziavano dal Padre. Capite cosa ha fatto Gesù lavando i piedi ai suoi discepoli? Le ha detto: Pietro, dai, fatti lavare questi piedi, che poi capirai. Stava parlando del suo sacrificio, stava dimostrando questo suo amore, che è un amore che serve, che si abbassa e che si sacrifica. E Gesù finisce questo evento con un invito, e l'abbiamo letto in Giovanni 13:14. C'è scritto: se dunque io, il Signore e Maestro, vi ho lavato i piedi, cioè questa non c'è tanto da interpretare, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Io vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. Perché il servo non è più grande del suo servitore, il messaggero non è più grande di colui che l'ha mandato. Ora, io ringrazio Dio, veramente, che, diciamo, Gesù con queste parole non è che sta dicendo che mo ci dobbiamo togliere tutte le scarpe e ci dobbiamo mettere a lavare i piedi l'uno dell'altro, perché insomma, io lo dico, se come chiesa cominciamo a fare questo avrei qualche problema a riguardo. Ma Gesù che cosa sta dicendo? Sta dicendo: ehi, come io vi ho servito, anche voi amatevi, servendovi gli uni gli altri. Gesù dopo, qualche versetto dopo, dice: io vi ho dato un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. E qui ce l'ha detto come l'ha amato, ha dato delle caratteristiche, delle qualità, degli standard a questo amore, e ora lo sappiamo, e siamo noi chiamati, non solo chiamati ma equipaggiati a dimostrare questo amore che serve, che si abbassa e che si sacrifica l'uno agli altri. In altre parole, Gesù dice, piuttosto che cercare la tua ragione nelle relazioni, va bene, ma parliamo semplice, nelle relazioni, in una lite, ok? In una lite in chiesa, perché non succede mai, giusto? Piuttosto che cercare la tua ragione, cerca l'accordo. Questo sta dicendo, questo vuol dire amarsi servendosi. Perché tanto della ragione, in fondo, che cosa te ne fai? Io questo l'ho capito proprio ultimamente, che è successa una discussione proprio semplice, e io c'avevo ragione, cioè veramente, c'avevo proprio ragione. Però, cioè, che cosa me ne facevo di questa ragione? Che di settimana in settimana io non mi potevo sentire libera di salutare questa sorella in chiesa. Oh, ma che stiamo scherzando? Ma stiamo giocando qui? Piuttosto della ragione, cerca il compromesso. Scusate, cercate l'accordo, che è anche un compromesso. Piuttosto che ricamare sopra le cose che succedono, cerca la pace. Se qualcuno ti viene a dire: ma lo sai che ho litigato con mio marito, ma è vero, perché infatti io l'ho visto, perché lui fa così, così, così, che cosa stiamo facendo? È questo un amore che serve? È questo un amore che rispecchia Gesù? Attenzione chiesa, attenzione chiesa, perché Gesù dice, e l'abbiamo letto, se sapete queste cose, virgola, siete beati, cioè vuol dire siete benedetti, siete felici, se le fate. In altre parole, non basta saperle le cose, poi la conoscenza deve diventare azione, deve diventare parole, deve diventare atteggiamenti. Giuda aveva passato 3 anni insieme a Gesù. Giuda aveva ascoltato ogni singolo insegnamento di Gesù. Il problema di Giuda non era che non conosceva la verità, perché c'era andato a braccetto con la verità per 3 anni. Il problema di Giuda è che questa verità non aveva trasformato il suo cuore, non aveva deciso di essere coerente con quello che sapeva essere la verità. Allora, chiesa, Gesù qui ci invita ad amarci gli uni gli altri dell'amore che lui ha descritto, un amore che serve, un amore che si abbassa, un amore che si sacrifica. E la cosa più brutta che noi possiamo fare, e lo dico con un cuore pieno di amore per la nostra famiglia, lo sapete, è essere una chiesa che predica bene e che razzola male. Ma che brutta frase questa! Noi dobbiamo essere invece una chiesa che predica benissimo e razzola ancora meglio. E lo sapete come? Questo è un punto di partenza molto molto fondamentale. Essendo una chiesa che non si riconosce per le belle prediche che facciamo su questo palco, non si riconosce per le belle canzoni che cantiamo su questo palco, ma essendo una chiesa che si contraddistingue per un amore che serve, che si abbassa e che si sacrifica l'uno verso l'altro. O non è così? È di questo che stiamo parlando. E quindi che significa? Significa che con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli, servili, amali, parla bene. Gesù mi metteva questo pensiero oggi nel cuore, eravamo lì sopra, stavamo pregando, e mi ha detto: di alla chiesa che, perché questo è solo per voi perché io non sono sposata, quindi da qua, almeno questo non ce l'ho, di alla chiesa la più grande bugia che il diavolo ti può dire è che tuo marito o tua moglie è un tuo nemico, e che tuo marito o tua moglie è un ostacolo per servire il Signore, perché non è così, perché il tuo primo palco per servire è la tua famiglia. Quindi se stai servendo tuo marito, se stai servendo tua moglie, stai servendo Dio e stai dicendo sì alla chiamata che Dio ti ha dato, prima di tutto di prenderti cura della tua famiglia. Il tuo matrimonio non deve essere per forza come quello, fatemi dire così, di Fabio e Melissa, che vediamo qui servire insieme. Ma il tuo matrimonio è un matrimonio che serve nel momento in cui tu ami tua moglie, nel momento in cui tu ti sottometti a tuo marito, nel momento in cui tu non lo vedi come un ostacolo per il servizio. Che cosa vuoi fare? Cioè, che idea hai di servizio? Il tuo servizio incomincia dall'amare tuo marito e poi Dio si impegnerà a mettere a posto tutto il resto. Capite quello che vi voglio dire? A quanti aiuta questo? No, non dovete alzare, ma è troppo tardi. Ok. Questo è lavarsi i piedi. Anche a quei Pietro nel nostro gruppo familiare che non fanno altro che rovinare tutta l'atmosfera che noi abbiamo pensato di avere tutto quel gruppo. Anche quei Pietro che nel nostro gruppo familiare che sono anni che gli andiamo dietro e non capisce. Gesù ha lavato i piedi a Pietro, come anche noi dobbiamo continuare a servire, dobbiamo continuare ad amare, dobbiamo continuare a credere, a dare una seconda possibilità, perché se Dio ti dà una seconda possibilità ogni giorno che tu apri gli occhi, perché chi sei tu che non la devi dare a qualcun altro? Anche a quei Giuda nel tuo gruppo, nella tua famiglia, nella chiesa, che ti hanno ferito, che ti hanno usato, non lo so. Io di proposito ho voluto parlare molto di più di quello che Gesù ha fatto piuttosto che di quello che noi dobbiamo fare per rispecchiare quello che Gesù ci ha detto, perché noi lo sappiamo, le conosciamo le persone che ci viene difficile da servire, però abbiamo una scelta oggi. Sapendo che Gesù ci equipaggia, perché se Gesù ci ha detto amate come io ho amato voi, vuol dire che è possibile, vuol dire che Lui ci vuole aiutare in questo, vuol dire che Lui ti dà le strategie giuste per farlo, vuol dire che Lui ti dà il cuore giusto per farlo, vuol dire che tu devi scegliere però di farlo. Io non voglio essere una chiesa che fa finta, proprio non voglio essere una chiesa che canta bene e poi non dà un passaggio a uno che non c'ha la macchina. Non voglio essere quella chiesa. E non lo vuoi neanche tu. È vero? Vogliamo essere una chiesa che ama, seriamente, che serve, che si sacrifica, che rispecchia Gesù in quello che Lui ci ha detto di fare. Quindi io vorrei che ci alzassimo. E vorrei che chiudessimo i nostri occhi, chinassimo il nostro capo. E oggi voglio farti due domande. Se tu non hai mai sentito parlare di questo amore di Gesù, questo amore che ti ama fino alla fine, se tu hai sempre visto Dio come un Dio che è lontano, che non ha niente a che vedere con te, se tu ti senti distante oggi da quell'amore che abbiamo visto e letto che Gesù ha per te, e tu dici: io ho bisogno di essere amato così, io ho bisogno di fare pace con Dio, ho bisogno di Gesù nella mia vita, perché ho capito che vivendo la mia vita a modo mio, in maniera indipendente, in maniera egoistica, in maniera orgogliosa, non mi porterà da nessuna parte. Io ti voglio chiedere oggi di alzare la tua mano così che io possa pregare per te. Se vuoi accettare Gesù oggi nel tuo cuore per la prima volta, o forse l'hai fatto in passato ma poi ti sei allontanato, hai preferito vivere secondo quello che erano i tuoi desideri e la tua volontà, ma oggi vuoi ritornare a Gesù perché sai che devi chiedergli perdono, perché sai che hai bisogno di Lui nel tuo cuore, nella tua vita, alza la tua mano perché io voglio pregare per te, molto molto semplicemente. Grazie, vedo questa mano. Grazie. Grazie. Era proprio a voi tre che mi stavo rivolgendo. Grazie, grazie. Allora preghiamo insieme e ripeteremo questa preghiera tutti insieme. Signore Gesù, grazie perché sei vivo. Io ti chiedo perdono per tutti i miei peccati. Grazie perché tu mi perdoni. Grazie perché tu mi ami. Entra nel mio cuore, Gesù. Io ti do la mia vita e voglio fare la tua volontà. Grazie per la vita eterna che da oggi so di avere in te. Vorrei fare un altro invito. Oggi abbiamo parlato di amare come Gesù ci ama. E io lo so che mentre abbiamo ascoltato queste parole ti sono venute in mente persone, situazioni dove magari puoi amare meglio, dove magari puoi servire di più, dove Gesù ti ha detto: qui voglio che ti sacrifichi come io ho fatto. Quando ho parlato di tuo marito, quando ho parlato di tua moglie, quando ho parlato dei tuoi figli, quando ho parlato del tuo leader. Non aspettare che qualcun altro faccia la decisione per te, ma prendi tu la responsabilità delle tue relazioni e affidale a Gesù. Quindi con tutti gli occhi chiusi, io vorrei chiedere a chiunque prenda la decisione oggi di voler amare come Gesù ci ha mostrato che dobbiamo, vorrei che alzaste la vostra mano, io pregherò per voi. Signore Gesù, tu vedi queste mani e tu sai quanto per noi alcune volte è difficile amare come tu ci insegni a fare. Ma Gesù, io ti ringrazio perché nella tua umanità noi abbiamo l'esempio, ma nel tuo essere Dio noi abbiamo colui che ci equipaggia, che ci rende capaci, che ci dà le possibilità, che ci dà le abilità per vivere una vita in accordo con la tua volontà. Io ti prego di benedire tutte queste persone qui a Modugno, lì a Mottola. Ti prego, Gesù, di equipaggiare affinché noi possiamo essere una chiesa che si contraddistingue da un amore vero, da un amore che serve, da un amore che si abbassa, da un amore che si sacrifica proprio come tu ce l'hai dimostrato. Nel nome tuo, Gesù, prego questo. Amen.